Ad alta voce, Gabriele Vacis legge Le tigri di Mompracem, di Emilio Salgari. Yanez accese con precauzione una sigaretta e si sdraiò a fianco di Sandokan, fumando tranquillamente come se si trovasse sul ponte di uno dei suoi prahos. Sandokan invece, roso dall'impazienza, non poteva starsene fermo un istante. Di quando in quando si alzava per scrutare le tenebre, cercando di discernere ciò che accadeva nella palazzina del Lord o di scoprire la giovinetta. Dei vaghi timori lo agitavano, credendo che gli si fosse preparato qualche agguato nei dintorni dell'abitazione. Forse il biglietto poteva essere stato trovato da qualcheduno e recato a Lord James invece che a Marianna. Non sapendo più frenarsi, continuava ad interrogare Yanez, ma questi continuava a fumare senza rispondere. Finalmente giunse la mezzanotte. Sandokan si era alzato di scatto, pronto a slanciarsi verso la palazzina, anche a rischio di trovarsi improvvisamente dinanzi i soldati di Lord James. Yanez, però, che era pure balzato in piedi, lo aveva afferrato per un braccio. «Adagio, fratellino», gli disse, «tu mi hai promesso di essere prudente». «Non temo più nessuno», disse Sandokan, «sono deciso a tutto». «Mi preme la pelle, amico, tu dimentichi che v'è una sentinella presso il padiglione. Andiamo ad ucciderla, adunque. Basta non dia l'allarme, la strangoleremo». Lasciarono il macchione di peonie e si misero a strisciare fra le aiuole, nascondendosi dietro i cespugli e dietro i rosai di cina che crescevano numerosi. Erano giunti a circa 100 passi dalla palazzina quando Yanez fermò Sandokan. «Lo vedi quel soldato?» gli chiese. «Sì». «Mi pare che sia addormentato appoggiato al suo fucile. Tanto meglio, Yanez, vieni e sii pronto a tutto. Ho preparato il mio fazzoletto per imbavagliarlo, ed io ho in mano il Chris. Se manda un grido, lo uccido». Si cacciarono entrambi in mezzo ad una fitta aiuola che si prolungava in direzione del padiglione e, strisciando come due serpenti, giunsero a soli pochi passi dal soldato. Quel povero giovanotto, certo di non venire in tutto il paese, aveva giocato al muro del padiglione e sonnecchiava tenendo il fucile fra le mani. «Sei pronto, Yanez?» chiese Sandokan con un filo di voce. «Avanti». Sandokan, con un salto da tigre, si avventò sul giovane soldato e, afferratolo strettamente per la gola, con una spinta irresistibile lo atterrò. Yanez si era pure slanciato, con mano lesta imbavagliò il prigioniero, poi gli legò le mani e le gambe dicendogli con voce minacciosa: «Bada, se fai un solo gesto ti pianto il mio Chris nel cuore». Poi, volgendosi verso Sandokan: «Alla tua fanciulla ora. Sai quali sono le finestre?» «Oh sì», esclamò il pirata che già le fissava, «eccole là, sopra quel pergolato. Ah, Marianna, se tu sapessi che io sono qui. Abbi pazienza, fratellino mio, e se il diavolo non ci mette la coda, la vedrai». Ad un tratto Sandokan retrocesse mandando un vero ruggito. «Che hai?» chiese Yanez, impallidendo. «Hanno chiuso le sue finestre con una inferriata». «Diavolo!» «Bah, non importa». Raccolse una manata di sassolini e ne lanciò uno contro i vetri, producendo un leggero rumore. I due pirati attesero trattenendo il respiro in preda ad una viva emozione. Nessuna risposta. Yanez lanciò un secondo sassolino, poi un terzo, indi un quarto. Di nuovo i vetri si aprirono e Sandokan, alla azzurra luce dell'astro notturno, scorse una forma bianca che riconobbe subito. «Marianna!» sibilò alzando le braccia verso la giovanetta che si era curvata sull'inferriata. Quell'uomo così energico, così forte, vacillò come se avesse ricevuto una palla in mezzo al petto e rimase lì come trassognato, con gli occhi sbarrati, pallido, tremante. Un leggero grido irruppe dal petto della giovane lady, che aveva subito riconosciuto il pirata. «Animo, Sandokan», disse Yanez salutando galantemente la giovanetta, «raggiungi la finestra, ma spicciati che qui non tira buon vento per noi». Sandokan si slanciò verso la palazzina, s'arrampicò sul pergolato e si aggrappò ai ferri della finestra. «Tu, esclamò la giovinetta pazza di gioia, «gran Dio, «Marianna, oh mia adorata fanciulla», mormorò egli con voce soffocata, coprendole le mani di baci, «finalmente ti rivedo, tu sei mia, è vero, mia, ancora mia, sì, tua, Sandokan, in vita e in morte», rispose la vaga Lady, «vederti ancora dopo d'averti pianto per morto è troppa gioia, amor mio, mi credevi adunque spento, sì, e ho sofferto assai, immensamente, credendoti perduto per sempre, no, diletta Marianna, non muore così presto la tigre della Malesia, sono passato senza essere ferito in mezzo al fuoco dei tuoi compatrioti, ho attraversato il mare, ho fatto appello ai miei uomini e sono tornato qui alla testa di 100 tigri, pronto a tutto per salvarti. Sandokan, Sandokan, ascolta ora, perla di Labuan», rispose il pirata. «È qui il Lord?» «Sì, e mi tiene prigioniera temendo la tua comparsa. Ho veduto dei soldati, sì, e ve ne sono molti che vegliano dì e notte nelle stanze inferiori, sono circondata dappertutto, chiusa fra le baionette e le inferriate nell'assoluta impossibilità di fare un passo all'aperto. Mio prode amico, temo di non poter mai diventare tua moglie, di non poter mai essere felice perché mio zio, che ora mi odia, non acconsentirà mai a imparentarsi con la tigre della Malesia e tutto farà per allontanarci, per frapporre fra me e te l'immensità dell'oceano e l'immensità dei continenti. Due lacrime, due perle caddero dai suoi occhi. Tu piangi», esclamò Sandokan con istrazio. «Amor mio, non piangere, o io divento pazzo e commetto qualche follia. Odimi, Marianna, i miei uomini non sono lontani, oggi sono pochi, ma domani e o posdomani saranno molti, e tu sai quali uomini sono i miei. Per quanto il Lord barrichi la villa, noi entreremo, dovessimo incendiarla o rovesciare le muraglie. Io sono la tigre, e per te mi sento capace di mettere a ferro e fuoco non la villa di tuo zio, ma la Buan intera. Vuoi che io ti rapisca questa notte? Non siamo che due, ma se vuoi noi infrangeremo i ferri che ti tengono prigioniera, dovessimo pagare con la nostra vita la tua libertà. Parla, parla Marianna, che il mio affetto per te mi rende pazzo e mi infonde tanta forza da espugnare da solo questa villa. No, no, esclamò ella, no, mio valoroso, morto tu cosa sarebbe di me? Credi tu che io sopravviverei? Ho fiducia in te, sì, tu mi salverai, ma quando saranno giunti i tuoi uomini, quando tu sarai forte, potente tanto da schiacciare gli uomini che mi tengono prigioniera o da rompere le sbarre che mi rinchiudono. In quell'istante si udì sotto il pergolato un leggero fischio. Marianna trasalì. «Hai udito?» chiese. «Sì», rispose Sandokan, «e Yanez che si impazienta. Forse ha scorto un pericolo, Sandokan. Nelle ombre della notte forse si cela qualche cosa di grave per te, o mio prode amico, gran Dio, l'oro della separazione di giunta. Marianna, se non ci vedessimo più mai, non dirlo, amore mio, poiché dovunque avessero a portarti, io saprei raggiungerti. Ma intanto si tratta di poche ore, mia diletta. Domani forse i miei uomini giungeranno e sfonderanno queste muraglie». Il fischio del portoghese si udì un'altra volta. «Parti, mio nobile amico», disse Marianna, «tu corri forse dei grandi pericoli. Ah, io non li temo. Parti, Sandokan, ti prego. Parti prima che ti sorprendano. Lasciarti. Non so decidermi ad abbandonarti. Perché non ho condotto i miei uomini qui? Avrei potuto assalire improvvisamente questa casa e rapirti. Ma fuggi, Sandokan. Ho udito un passo nel corridoio. Marianna!» In quel momento nella stanza echeggiò un urlo feroce. «Miserabile!» tuonò una voce. Il Lord, poiché era proprio lui, afferrò Marianna per le spalle cercando di staccarla dai ferri mentre si udivano levare i chiavistelli alla porta del pian terreno. «Fuggi!» gridò Yanez. «Fuggi, Sandokan!» ripeté Marianna. Non vi era un solo momento da perdere. Sandokan, che ormai si vedeva perduto se non fuggiva, con un salto immenso attraversò il pergolato precipitandosi nel giardino. Vieni con me, Yanez, e ne vedrai di belle. Tu mi hai detto di non commettere pazzie e io voglio mostrarti se sarò prudente. Se mi uccidessero, la mia fanciulla non sopravviverebbe alla mia morte. Dunque non tentiamo un passo disperato. E non ci scopriranno i soldati? Non lo credo. D'altronde noi non ci fermeremo molto qui. Domani sera, accada quello che si vuole, noi prenderemo il volo. Vieni, Yanez, ti condurrò in un luogo sicuro. I due pirati si alzarono mettendosi le carabine sotto il braccio e si allontanarono dalla cinta tenendosi nascosti in mezzo alle aiuole. Sandokan fece attraversare al compagno una parte del parco e lo condusse in un piccolo fabbricato ad un solo piano che serviva da serra per i fiori e che sorgeva a circa 500 passi dalla palazzina di Lord Geelong. Aprì senza far rumore la porta e s'avanzò tentoni. «Dove andiamo?» chiese Yanez. «Accendi un pezzo d'esca», rispose Sandokan. «Non scorgeranno la luce dal di fuori. Non vi è pericolo, questo fabbricato è circondato da piante foltissime». Yanez obbedì. Quella stanza era piena di grandi vasi contenenti delle piante esalanti acuti profumi, essendo ormai quasi tutte in fiore ed in gommo di vaselle di tappo di bambù d'estrema leggerezza. All'estremità opposta il portoghese vide una stufa di dimensioni gigantesche, capace di contenere una mezza dozzina di persone. «È qui che noi ci nasconderemo?» chiese a Sandokan. «Il luogo non mi sembra poi tanto sicuro. I soldati non mancheranno di venire a esplorarlo, specialmente con quel migliaio di sterline che Lord James ha promesso per la tua cattura. Non ti dico che non vengano. E allora ci prenderanno. Adagio, amico Yanez. Vuoi dire che non verrà a loro l'idea di andarci a cercare entro una stufa?» Yanez non seppe frenare uno scoppio di risa. «In quella stufa!» esclamò. «Sì, ci nasconderemo là dentro. Diverremo più neri degli africani, fratellino mio. La fuliggine non deve scarseggiare in quel monumentale calorifero. E ci laveremo più tardi, Yanez. Ma Sandokan, se non vuoi venire, spicciatela tu con gli inglesi. Non veda scegliere, Yanez, o nella stufa o farsi prendere». «Non si può esitare sulla scelta», rispose Yanez ridendo. «Andiamo intanto a visitare il nostro domicilio per vedere se è almeno comodo». Aprì lo sportello di ferro, accese un altro pezzo d'esca e si cacciò risolutamente nell'immensa stufa starnutendo sonoramente. Sandokan l'aveva seguito senza esitare. Poco ve n'era a sufficienza, ma vi era anche grande abbondanza di cenere e di fuliggine. Il forno era così alto che i due pirati potevano mantenersi comodamente diritti. Il portoghese, a cui l'umore allegro non faceva mai difetto, si abbandonò ad una ilarità clamorosa, nonostante la pericolosa situazione. «Chi mai potrà immaginarsi che la terribile tigre della Malesia è venuta a rifugiarsi qui?» disse. «Per Giove, sono certo che noi la passeremo liscia». «Non parlare così forte, amico», disse Sandokan, «potrebbero udirci». «Bah, devono essere ancora lontani». «Non quanto credi. Prima di entrare nella serra ho veduto due uomini visitare le aiuole a poche centinaia di passi da noi. Che vengano a visitare anche questo luogo, e ne sono certo. Diavolo, se volessero vedere anche la stufa?» «Non ci faremo prendere tanto facilmente, Yanez. Abbiamo le nostre armi, quindi possiamo sostenere un assedio». «E nemmeno un biscotto, Sandokan. Spero che non ti accontenterai di mangiare della fuliggine. E poi, le pareti della nostra fortezza non sembrano molto solide, eh? Con un buon colpo di spalla si possono diroccare». «Prima che atterrino le pareti ci slanceremo noi all'attacco», disse Sandokan, che aveva come sempre una immensa fiducia nella propria audacia e nel proprio valore. «Bisognerebbe però procurarci dei viveri. Ho veduto dei banani e dei pombo crescere attorno a questa serra e noi andremo a saccheggiarli. Quando? Taci! Odo delle voci. Mi fai venire i brividi. Tieni pronta la carabina, non temere. Ascolta». Al di fuori si udivano delle persone parlare ed avvicinarsi. Le foglie scrosciavano ed i sassolini del viale che conducevano alla serra stridevano sotto i piedi dei soldati. Sandokan fece spegnere l'esca, disse a Yanez di non muoversi, poi aprì con precauzione lo sportello di ferro e guardò fuori. La serra era ancora tutta oscura, però attraverso i vetri vide alcune torce brillare in mezzo ai macchioni di banani che crescevano lungo il viale. Guardando con maggiore attenzione scorse 5 o 6 soldati preceduti da 2 negri. «Che si preparino a visitare la serra?» si chiese con una certa ansietà. Rinchiuse con precauzione lo sportello e raggiunse Yanez nel momento che uno sprazzo di luce illuminava l'interno del piccolo edificio. «Vengono», disse al compagno, il quale non osava quasi più respirare. «Teniamoci pronti a tutto, anche a slanciarci contro quegli importuni. È montata la tua carabina? Ho già il dito sul grilletto». «Benissimo, sguaina anche il Chris». Il drappello entrava allora nella serra illuminandola completamente. Sandokan, che si teneva presso lo sportello, vide i soldati smuovere i vasi e le sedie visitando tutti gli angoli dello stanzone. Malgrado il suo immenso coraggio, non seppe reprimere un fremito. Se gli inglesi rovistavano in quel modo, era quindi da aspettarsi da un momento all'altro la loro poco gradita visita. Sandokan si affrettò a raggiungere Yanez, il quale si era accovacciato in fondo, semituffato nelle ceneri e nella fuliggine. «Non muoverti», gli sussurrò Sandokan, «forse non ci scopriranno». «Taci», disse Yanez, «ascolta». Una voce diceva che quel dannato abbia proprio preso il volo o che si sia inabissato sottoterra, chiese un altro soldato. «Ah, quell'uomo è capace di tutto, amici miei, vi dico che quel sacripante non è un uomo come noi, ma un figlio di compare Belzebù». «Io non sono di parere contrario, Varrez», riprese la prima voce con un certo tremito che indicava come il suo proprietario avesse indosso una buona dose di paura. «Non l'ho veduto che una sola volta quell'uomo tremendo e mi è bastato. Non era un uomo, ma una vera tigre, e vi dico che ha avuto il coraggio di scagliarsi contro 50 uomini senza che una palla potesse coglierlo». «Tu mi fai paura, Bob», disse un altro soldato. «E a chi non farebbe paura?» riprese colui che si chiamava Bob. «Io credo che nemmeno Lord Geelong si sentirebbe l'animo di affrontare quel figlio dell'inferno. Comunque sia, noi cercheremo di prenderlo. È impossibile che ormai ci sfugga. Il parco è tutto circondato e se vorrà scalare la cinta vi lascerà le ossa. Scommetterei 2 mesi della mia paga contro 2 penny che noi lo cattureremo. Gli spiriti non si prendono». «Tu sei pazzo, Bob, a crederlo un essere infernale. Forse che i marinai dell'incrociatore che sconfissero i 2 Prahos alla foce del Fiumicello non gli hanno cacciato una pala nel petto. Lord Geelong, che ebbe la sventura di curare la ferita, asserì che la tigre è un uomo come noi e che dal suo corpo usciva sangue uguale al nostro. Ora ammetti tu che gli spiriti abbiano del sangue?» «No». «Allora quel pirata non è altro che un briccone, molto audace, molto valoroso, ma sempre un furfante degno del capestro». «Canaglia», mormorò Sandokan, «se non mi trovassi qui dentro ti farei vedere chi sono io». «Orsù», riprese la voce di prima, «cerchiamolo o perderemo le 1000 sterline che Lord James Gillon ci ha promesso». «Qui non c'è, andiamo a cercarlo altrove». «Adagio, Bob, vedo là una stufa monumentale capace di servire di rifugio a parecchie persone. Mano alle carabine e andiamo a vedere». «Puoi burlare di noi, camerata», disse un soldato. «Chi vuoi che si vada a nascondere là dentro? Non vi starebbero là dentro nemmeno i pigmei del re d'Abissinia. Andiamo a visitarla, vi dico». Sandokan e Yanez si ritrassero più che poterono alla estremità opposta della stufa e si sdraiarono fra la cenere e la fuliggine per meglio sfuggire agli sguardi di quei curiosi. Un istante dopo lo sportello di ferro veniva aperto e una striscia di luce si proiettava nell'interno, insufficiente però per illuminare l'intera stufa. Un soldato introdusse il capo, ma subito lo ritrasse, sternutendo sonoramente. Una manata di fuliggine lanciatagli sul viso da Sandokan lo aveva reso più nero di uno spazzacamino e l'aveva mezzo accecato. «Al diavolo, chi ha avuto l'idea di farmi mettere il naso dentro questo magazzino di nero fumo?» esclamò l'inglese. «Era ridicola», disse un altro soldato. «Noi perdiamo qui del tempo prezioso senza avere un risultato. La tigre della Malesia deve trovarsi nel parco e forse a quest'ora cerca di superare la cinta. Affrettiamoci a uscire», dissero tutti. «Non sarà qui che noi guadagneremo le 1000 sterline promesse dal Lord». I soldati batterono precipitosamente in ritirata, chiudendo con fracasso la porta della serra. Per alcuni istanti si udirono i loro passi e le loro voci. Poi più nulla. Il portoghese, quando non udì più nulla, respirò a lungo. «Corpo di 100.000 spingarde!» esclamò. «Mi pare di essere vissuto 100 anni in soli pochi minuti. Io ormai non davo una piastra della nostra pelle. Per poco che quel soldato si fosse allungato, ci scopriva tutti e due. Si potrebbe accendere un cero alla Madonna del Pilar. E non nego che il momento sia stato terribile», rispose Sandokan. «Quando ho veduto a soli pochi palmi da me quella testa, ho veduto rosso dinanzi ai miei occhi e non so chi mi abbia trattenuto dal far fuoco. Che brutto affare sarebbe stato. Ora però non avremo più nulla da temere, continueranno le loro ricerche nel parco, poi finiranno col persuadersi che noi qua non ci siamo più. E quando ce ne andremo? Non avrai certamente l'idea di rimanere qui qualche settimana. Pensa che i Prahos possono ormai essere già giunti alla foce del Fiumicello. Non ho alcuna intenzione di fermarmi qui, tanto più che i viveri non abbonderanno. Aspettiamo che la sorveglianza degli inglesi si rallenti un po' e vedrai che prenderemo il volo. Anch'io ho vivissimo desiderio di sapere se i nostri uomini sono giunti, poiché senza il loro concorso non sarà possibile rapire la mia Marianna. Sandokan mio, andiamo a vedere se vi è qualche cosa da porre sotto i denti o da bagnare la gola. Usciamo, Yanez. Portoghese, che si sentiva soffocare entro quella stufa fuligginosa, spinse innanzi la carabina, poi strisciò fino allo sportello, saltando lentamente su di un vaso che era vicino, onde non lasciare sul suolo le tracce della fuligine. Sandokan imitò quella prudente manovra e, balzando di vaso in vaso, giunsero alla porta della serra. «Si vede nessuno?» chiese. «Tutto è oscuro all'esterno. Allora andiamo a saccheggiare i banani». Si spinsero fino a un lungo giuliale e, trovati alcuni banani e dei pombo, fecero un'ampia provvista onde calmare gli stiracchiamenti dello stomaco e gli ardori della sete. Stavano per ritornare nella serra quando Sandokan si arrestò dicendo: «Aspettami qui, Yanez. Voglio andare a vedere dove sono i soldati». «È un'imprudenza quella che vuoi commettere», rispose il portoghese. «Lascia che cerchino dove vogliono. Cosa importa ormai a noi?» «Ho un progetto in testa». «Al diavolo il tuo piano, per questa notte nulla si può fare». «Chi lo sa», rispose Sandokan, «forse noi possiamo andarcene senza aspettare il domani, d'altronde la mia assenza sarà breve». Porse a Yanez la carabina, afferrò il Chris e si allontanò silenziosamente tenendosi sotto la fosca ombra dei macchioni. Giunto presso l'ultimo gruppo dei banani, scorse a grande distanza alcune torce che si dirigevano verso la cinta. «Pare che si allontanino», mormorò. «Vediamo cosa succede nella palazzina di Lord James. Ah, se potessi vedere, sia pure per un istante, la mia fanciulla, me ne andrei di qui più tranquillo». Soffocò un sospiro e si diresse verso il viale, procurando di tenersi al riparo dei tronchi degli alberi e dei cespugli. Giunto in vista della palazzina, si fermò sotto una macchia di manghi e guardò. Vedo la finestra di Marianna illuminata. «Ah, se potessi rapirla», mormorò, fissando ardentemente il lume che brillava attraverso l'inferriata. Fece ancora 3 o 4 passi tenendosi curvo al suolo, onde non farsi scoprire da qualche soldato che poteva trovarsi imboscato in quei dintorni. Poi si arrestò nuovamente. Aveva scorto un'ombra passare dinanzi al lume che le era sembrata quella della fanciulla amata. Stava per lanciarsi innanzi, quando, abbassando gli sguardi, vide una forma umana ferma dinanzi alla porta della palazzina. Era una sentinella che stava appoggiata alla sua carabina. «Che mi abbia scorto?» si chiese. La sua esitazione durò un solo istante. Aveva ancora veduto l'ombra della fanciulla ripassare dietro l'inferriata. Senza badare al pericolo si slanciò innanzi. Aveva fatti appena 10 passi quando vide la sentinella imbracciare rapidamente la carabina. «Chi va là?» gridò. Sandokan si era arrestato. Shukriya meherbani karam.